Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria parleremo chiaramente, lo faremo dando alcune notizie in breve adesso e poi alle 18.10 della riunione del Comitato Direttivo della Banca Centrale Europea. Come già i nostri GR24 vi hanno ricordato, tassi invariati, l'idea, o meglio le attese, non erano tanto sui tassi, nessuno si attendeva modifica ai tassi stessi, ma sulla politica di quantitative easing, ossia quella che noi abbiamo chiamato in maniera un po' approssimativa, volutamente approssimativa, diciamo, lo stampaggio di euro, ossia l'iniezione continua di liquidità. Da questo punto di vista Mario Draghi ha confermato che l'estensione del QE arriverà fino al marzo del 2017, però non ha annunciato la possibilità di andare oltre il marzo 2017. Le interpretazioni qui sono un po' divergenti, nel senso che la prima reazione dei mercati è stata deludente e sono andati ad azzerare i rialzi. In realtà poi BCE ha ribadito che potrebbe andare anche oltre se necessario, però Draghi poi ha chiarito che non si è discusso dell'estensione, quindi non è stato nemmeno oggetto, diciamo, della discussione. Detto questo, le borse hanno ridotto i guadagni, chi era in rialzo, e adesso vedono Parigi perdere lo 0,20%, Francoforte perdere lo 0,50% e ancora Londra, che non c'entra, più 0,27%, mentre Milano mantiene un rialzo dello 0,50%, ma era positiva di oltre un punto percentuale. I titoli: Ferragamo più 4,36, Monte dei Paschi più 3,60, Generali più 2,80, Unicredit più 2,20 come A2A e Mediolanum l'1,80 lo guadagna Azimut e l'1,70 Mediobanca. Il fronte opposto invece vede calare Buzzi Unicem del 3,80%, Campari del 2,30, Ferrari dell'1,5%, Recordati dell'1% come Fiat Chrysler. L'euro si era rafforzato a quota 1,13, adesso è 1,12,72. Di questo parleremo, ripeto, nella seconda ora del programma. In apertura altre notizie, torneremo sulla vicenda, ripeto, adesso non voglio rifare la puntata di ieri, non come valutazione politica ma come valutazione economica della gestione AMA e ATAC, perché ieri l'abbiamo, diciamo, interrotta, con un raffronto che oggi è presente sul Sole 24 Ore, un raffronto che valeva, lo dico prima dalle polemiche, e di cui l'attuale sindaco Raggi non ha nessuna responsabilità, valeva anche prima delle elezioni della Raggi, ossia tra la cattiva gestione dell'ATAC, usando come raffronto invece quella della municipalizzata milanese, immaginando che due città, Roma è più grande per carità, ma sono le due metropoli d'Italia, le municipalizzate e i trasporti delle due metropoli italiane possono essere raffrontate nella gestione. Ma parleremo anche di Milano per un piano di investimenti importante. Lo so che sembra quasi, viste le difficoltà che ha Roma in questo momento anche nella gestione ordinaria, sembra quasi un raffronto impietoso, ma in realtà la notizia c'è e anche di questo parleremo. Un piano di investimenti che serve a 5 punti condivisi, il cosiddetto patto per Milano, che vale complessivamente 1,5 miliardi, è in fase di matura in questi giorni. C'è stato un invio prima da Palazzo Marino a Palazzo Chigi e poi è ritornato a Palazzo Marino per gli ultimi dettagli. 5 punti condivisi: infrastrutture, riqualificazione degli ex scali ferroviari, miglioramento delle periferie, messa in sicurezza del Seveso in attesa delle prossime esondazioni e il dialogo con le grandi agenzie europee, prima fra tutte quelle del farmaco, quelle che devono spostarsi da Londra dopo la Brexit. C'è anche il tema della gestione degli immigrati e dei rifugiati. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. A Allora, come sempre partiamo dal fronte internazionale. Il Giappone ha un'altra buona notizia. Già la settimana scorsa commentammo una buona notizia di carattere economico da Giappone. Oggi arriva anche una revisione a rialzo della crescita dell'economia nel secondo trimestre grazie alla cosiddetta Abe Economics, quindi iniezioni forti di investimenti pubblici, una Abe Economics che molti vogliono immaginare simile a un approccio keynesiano. Comunque, maggiori investimenti delle aziende, aumento del livello delle scorte da parte delle imprese, accelerazione della spesa pubblica. Il PIL quindi è aumentato da aprile a giugno nel secondo trimestre dello 0,7% su base annuale, quindi più di tre volte rispetto alla prima stima che era dello 0,2%. E su questo devo dire che invece se il Giappone dà segnali di risveglio, la stessa cosa non si può dire per la Cina. L'export cinese infatti è calato, meno 2,8% in dollari, in controvalore in dollari, e c'è stato un primo aumento delle importazioni in Cina che non si registrava dal 2014, dalla fine 2014. Incide sul calo dell'export cinese la debolezza dell'economia globale e chiaramente anche il quadro incerto della ripresa economica. La Cina comunque ha un surplus per quello che riguarda l'agosto di 52 miliardi di dollari, quindi la differenza tra quanto esporta e quanto importa, scusatemi, è a favore delle esportazioni per un saldo attivo di 52 miliardi di dollari. Spostiamoci in Europa e parliamo della Gran Bretagna, della Brexit. Perché oggi il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk a Londra per incontrare la Premier britannica Theresa May ha chiesto alla Gran Bretagna di iniziare il più presto possibile l'iter per la Brexit, cioè discutere i modi e i tempi dell'uscita del Regno Unito dal club cosiddetto dei 28. Ha detto Tusk con una metafora un po' sportiva, ora la palla è nelle mani di Londra. In effetti devo dire che la May ha dato un orientamento, per quello che abbiamo letto, un po' più chiaro. Però insomma adesso è giusto che la Gran Bretagna faccia capire l'iter e come avvierà le procedure e poi gli eventuali trattati che dovesse fare la Gran Bretagna con l'Unione Europea, come avviene per altri paesi fuori dall'Unione Europea, accordi bilaterali tra Bruxelles e in questo caso Londra. Ancora spostandoci dal... ascoltiamo intanto, visto che molti me lo chiedono, un passaggio delle parole di Mario Draghi di oggi, poi ripeto avremo uno spazio più approfondito dopo le 18, in cui ha detto che i tassi a livello attuale o inferiore a quello attuale si manterranno per un lungo tempo, e poi questo è il comunicato, e poi che il quantitative easing resterà fino a marzo 2017, oltre se necessario, al ritmo di 80 miliardi di acquisti di asset al mese. Qualcuno mi chiede come fa a stampare soldi la BCE. Beh, così acquista asset per almeno 80 miliardi di euro al mese, li paga in euro, e quindi del resto la Banca Centrale Europea è l'unica autorizzata a stamparli. Per cui acquistando asset immette liquidità nel mercato, nell'Unione Europea. E poi Draghi che ha precisato: non abbiamo discusso dell'estensione del programma di acquisti oltre il marzo del 2017. Sulla base delle nostre periodiche analisi della situazione economica e monetaria, abbiamo deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Continuiamo ad attenderci che rimangano su questo livello o anche inferiore per un prolungato periodo di tempo e ben oltre l'orizzonte del nostro programma di acquisti. Per ciò che riguarda le misure straordinarie di politica monetaria, confermiamo che l'ammontare mensile di acquisti da 80 miliardi continuerà fino al marzo 2017 o oltre, se necessario. In ogni caso, finché non vedremo un sostanziale aggiustamento del ritmo dell'inflazione in linea con i nostri obiettivi. Continueremo a monitorare da vicino gli sviluppi dell'economia e sui mercati finanziari. Preserveremo il livello molto consistente di supporto monetario di cui tengono conto le nostre previsioni e che è necessario per garantire il ritorno dell'inflazione ai livelli obiettivo, ossia sotto ma vicino al 2% nel medio termine. se giustificato, agiremo utilizzando tutti gli strumenti disponibili nell'ambito del nostro mandato. Nel frattempo, il Consiglio ha dato mandato ai comitati competenti di valutare le opzioni che assicurino una morbida attuazione del nostro piano di acquisti. E ricordo anche, visto che ne abbiamo parlato ieri, che lo stesso Mario Draghi ha chiesto alla Germania di sfruttare i margini che ha, quindi i buoni conti. Ieri abbiamo parlato del surplus commerciale record mondiale, nonostante le raccomandazioni dell'Unione Europea. La Germania ormai ha un surplus che è il 9% del PIL, quando l'Unione Europea le chiese di non andare oltre il 6%, cioè di... E Draghi ha detto: la Germania e i paesi che hanno margini per attuare manovre di bilancio li usino. Per cui per sfruttare ed essere osare un po' di più nelle manovre di bilancio, se hai dei margini. Alla situazione comunque economica europea e alle decisioni della Banca Centrale Europea sono dedicati 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi come sempre anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Per ora niente ampliamento del QE, una sigla che avete imparato a conoscere, significa quantitative easing, cioè allentamento quantitativo, la scelta che fa la Banca Centrale Europea di non dare di liquidità ai mercati affinché questo fiume di denaro arrivi alle imprese e alle famiglie, insomma all'economia reale. Oggi la BCE, in una riunione molto attesa perché la prima dopo le ferie, ha deciso di lasciare invariati i tassi, e questo era atteso, e di non cambiare anche il programma di acquisto di bond sovrani e di bond societari a 80 miliardi al mese, e questo era meno scontato. Mario Draghi, presidente della BCE, ha comunque lasciato aperta la porta a un eventuale prolungamento di questo programma di acquisto di titoli, anche oltre il termine previsto nel marzo 2017. Importanti le stime diffuse oggi sempre dalla BCE. Il PIL dell'Eurozona crescerà quest'anno dell'1,7%, mentre a giugno si prevedeva crescesse dell'1,6%. L'1,6% invece sarà la crescita del 2017, e nel 2018 si avrà la stessa performance, mentre a giugno si pensava potesse essere superiore, vale a dire 1,7%. L'inflazione invece resterà bassa nei prossimi mesi ed è prevista a più 0,2% nel 2016, che rimane appunto invariata nella stima, e a più 1,2% nel 2017. Draghi ha ammesso che nello scenario di base l'inflazione impiegherà un po' più di tempo del previsto a raggiungere il livello al di sotto ma vicino al 2%, che è il target della BCE, ma ha specificato che non servirà molto più tempo. I rischi prevalenti sono comunque di un peggioramento delle prospettive economiche nei prossimi trimestri, a causa della domanda internazionale debole e degli esiti del referendum su Brexit. Le borse si aspettavano qualcosa di più e speravano in un annuncio più dettagliato di un nuovo QE, magari da estendere anche all'acquisto di azioni di società europee, ma di questo non si è parlato e per questo hanno reagito male. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Adesso arriviamo anche al tema Amatac, ripeto a chi mi sta scrivendo: non ci occupiamo delle indagini né di un giudizio politico su quello che sta capitando, né ci passa per la testa di dare responsabilità alla Raggi della gestione di Amatac, che ama responsabilità che non ha, fino al momento in cui non è stata eletta sindaco. La contestazione e le, diciamo, perplessità che abbiamo avanzato ieri riguardavano i direttori generali, il amministratore delegato di AMA e il direttore generale di ATAC, rimossi o che se ne sono andati in maniera polemica, quando ci sembra, dati e bilanci alla mano, che stessero obiettivamente facendo un buon lavoro. Okay? Delle mail, che Di Maio ha letto, non letto, su questo se ne occupano i giornali, se ne occuperà la magistratura per capire se è vero che l'attuale assessore Muraro ai tempi di Mafia Capitale dava ordine al direttore generale di allora dell'AMA, quelli coinvolti nel Panzironi Fiscon, coinvolti in Mafia Capitale, tutta roba di cui si occupa la magistratura, e vedremo, e vedremo. Altra cosa è la gestione aziendale e chi ti consiglia di rimuovere certi manager, questo è un altro tema, e ci siamo occupati di tutte le municipalizzate di questo paese quando necessario, quindi lo facciamo anche con AMA e con ATAC. Però prima vorrei aprire un breve spazio sul rapporto annuale che presenta la Lega Coop. il rapporto COP 2016 su andamento dei consumi e andamento dell'economia. È chiaro che la prospettiva delle COP è una prospettiva di commercio al dettaglio e di vendite e di consumi. La nostra Maria Luisa Pezzali, in occasione della presentazione del rapporto COP 2016, ha raggiunto il presidente, è intervistato il presidente di ANCC COP, Stefano Bassi. La spesa alimentare al palo, ma sotto una situazione di stagnazione dei consumi alimentari ci sono grandi cambiamenti, categorie che continuano a scendere in modo importante e anche consumi emergenti, alcune sono mode, altre sono fenomeni di lungo periodo. Siamo nell'imminenza delle leggi di stabilità, richieste al governo? Non toccate l'IVA perché sarebbe una cosa pesante, grave per i consumatori, iniqua perché colpisce tutti chi ha poco e chi ha tanto, e sarebbe anche una cosa non utile per sostenere la domanda interna, che è il vero punto debole della nostra ripresa così piccola. Quindi non bisogna in qualche modo fare operazioni che danneggino, diciamo così, la possibilità di riprendere i consumi, e se si può fate ancora qualcosa in più per riequilibrare il reddito e la condizione degli italiani che si sono polarizzati, sono ancora troppe famiglie in povertà o in difficoltà. C'è un divario sociale che passa anche dall'età, c'è una silver economy che viaggia in modo importante, e una millennials economy che sfrutta la rete per risparmiare, sfrutta le tecnologie, ma che arranca in quanto a capacità di spesa. Questa, diciamo, polarizzazione delle condizioni per età è un po' particolare, perché troviamo fasce di povertà estrema in anziani non protetti, ma è anche vero che c'è una popolazione, diciamo, over 60, over 65, che invece ha buoni redditi e buone condizioni, mentre i ragazzi fino a 30-35 anni a volte sono in grandi difficoltà, sono bravissimi spesso ad arrangiarsi, a trovare soluzioni, ma io penso che debba essere fatta una politica per le famiglie giovani in questo paese, che è la vera priorità di questo paese. E poi il rapporto fotografa anche i cambiamenti degli italiani attraverso, come dire, il cambiamento del carrello della spesa. Su questo sempre la nostra Maria Luisa Pezzali ha intervistato Albino Russo, che è direttore dell'ufficio studi COP. Il carrello della spesa è il luogo della sperimentazione di un paese che ha voglia di cambiamento e che proprio a partire dal cibo sperimenta le novità. Quello che troviamo oggi nel carrello della spesa è una nuova attenzione alla salute e alla naturalità dei prodotti, ma soprattutto una eccezionale voglia di mischiare la tradizione della dieta mediterranea con stimoli che vengono da altri luoghi. Più 8% la crescita dei cibi etnici, soprattutto è boom dei cosiddetti superfoods, cibi che spesso appartengono a tradizioni alimentari lontane, ingredienti che aiutano a vivere meglio. E così, dopo averli cercati sul web, questi superfood diventano acquisti nel carrello della spesa. Nomi anche strani, alcuni di questi sono diventati di massa, parliamo di quinoa, di zenzero, di curcuma, di azuki, di kefir, di amaranto e di molti altri prodotti che gli italiani individuano e sperimentano e diventano trend alimentari. La curcuma raddoppia le vendite negli ultimi 12 mesi, lo zenzero fa più 146%, vedremo cosa sarà il trend di domani. Grande apertura sull'utilizzo delle nuove tecnologie, l'Italia si piazza ai primi posti in Europa sia per utilizzo dei social che per acquisto di nuovi device, la rete come fonte per risparmiare, per utilizzare l'economia della condivisione ad esempio, voi avete quantificato anche il risparmio annuale? Sì, gli italiani sono diventati entusiasti della rete quando la rete è entrata nel telefonino. Oggi siamo tra quelli che utilizzano di più la connettività mobile, siamo quelli che guardano il telefono al mondo più spesso, lo fanno appena svegli e prima di andare a letto. E avere questo oggetto in tasca sta abilitando gli italiani a comportamenti più intelligenti, più smart. Questa intelligenza è applicata soprattutto a vivere meglio e risparmiare qualcosa. Abbiamo stimato che le tecnologie hanno fatto crescere i cosiddetti consumi gratuiti, cioè attività di consumo che prima venivano a cui corrispondeva una spesa monetaria e che oggi invece sono, grazie alla tecnologia, liberi, free. Il totale di questi consumi è stimato in 20 miliardi, che prima erano incassi per le imprese e oggi non lo sono più. Un risparmio di circa 1.400 euro all'anno a famiglia. Vabbè, tutti a investire in zenzero, visti i dati. Comunque no, è importante capire come cambiano le abitudini al consumo degli italiani. Adesso andiamo sul meteo. E poi Amatac e il 1,5 miliardi di piano complessivo di investimenti invece su Milano. 349-238-6666 per sms e whatsapp e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, secondo capitolo del nostro approfondimento sulla gestione di Atac e Ama, non sulle polemiche politiche. Ripeto, la posizione della Muraro, oggi alcuni giornali segnalano che l'assessore all'ambiente ai tempi di Mafia Capitale dava ordine al direttore generale di Ama, del tempo, indagati Panzironi e Fiscon. La posizione politica interna, tutta la polemica se Di Maio abbia fatto bene a dire che aveva sottovalutato la mail, alcuni scrivono oggi addirittura che non è possibile che l'ex amministratore delegato di Ama, Ama è la municipalizzata dei rifiuti, Atac quella dei trasporti, Daniele Fortini, quello che se n'è andato, in polemica, dicevo, Di Maio sostiene che avendo ricevuto, sono state 14 denunce presentate dall'ex amministratore delegato, si era confuso, alcuni fanno notare che visti i tempi avrebbe avuto 3 giorni per presentare 14 denunce, com'era possibile? No, questa fa parte della polemica e delle ricostruzioni che farà la magistratura e di quelle che stanno facendo i giornali. A noi interessa la gestione di queste due società. Già abbiamo raccontato ieri come, per carità, tutto si può fare, non c'è nulla, nessuno è intoccabile, ma aver rimosso nel caso di Atac un direttore generale come Lettighieri, che si era mosso riducendo di 10 milioni di euro i furti con le telecamere, riducendo a un quinto quanto era, adesso lo riprendo, l'usura di 2/3 l'usura dei pneumatici, lì c'era tutto un giro di non dico di mazzette, ma insomma, come possiamo chiamare gli sprechi quando qualcuno ci guadagna? Di furti? Ecco, furti veri, perché sparivano attrezzature per 10 milioni di euro all'anno, e furti mascherati con questi pneumatici, per esempio all'Atac, che venivano cambiati con una media che era doppio, il triplo delle altre aree del paese. E Lettinghieri si era scontato anche con i sindacati potentissimi in Atac e creando anche il caso dei dipendenti, 850 dipendenti che il 5 giugno chiesero di fare gli scrutatori, e ebbe una risposta anche pesante, perché improvvisamente si ruppero 100, si registrano 100 guasti in più al giorno dopo questa sua decisione. Vabbè. La vicenda analoga anche per Ama, perché lo dico? Perché al di là di come uno la pensi su Filippi e soprattutto Daniele Fortini, quello che appunto viene mandato via praticamente il 20 giugno, se non ricordo male, il sindaco Raggi e da Paola Muraro, che riaprono il trito vagliatore di Cerroni, quello che Filippi e Fortini, Cerroni e re dei rifiuti a Roma, avevano bloccato sostenendo che bastavano gli altri quattro impianti già presenti, facendoli lavorare a pieno regime. E quindi da un lato c'è questa riapertura verso Cerroni, e ripeto, Filippi aveva dimostrato che si poteva stare in equilibrio anche senza usare quell'impianto, con i 4 impianti di trattamento meccanico biologico che erano in grado di smaltire le 2.800 tonnellate di indifferenziato che la città produce ogni giorno. Poi abbiamo fatto notare, qui entriamo sempre in chiave economica, non è che valga solo quando c'è di mezzo il PD, la Lega, Forza Italia o Crocetta o la Sicilia, che è un po' singolare scegliere come assessore all'ambiente una persona come Paola Muraro, che ha lavorato per 12 anni come consulente esterna di Atac e di Ama, scusatemi, ma con una scrivania dentro gli edifici, da quello che sostengono molti testimoni, incluso lo stesso Filippi, che racconta che quando arrivò trovò la scrivania della Muraro. È una persona che ha ricevuto 1.350.000 euro di compensi in questi 12 anni, magari ha operato benissimo, però senza mai un contratto e solo con lettere di incarico vistate per accettazione. In realtà, per opportunità politica, visto che l'AMA era un colabrodo, anche se la gestione Filippi e Fortini aveva portato il bilancio di AMA, ecco perché ce ne occupiamo in questo programma, da un utile di 280.000 euro nel 2014 a un utile di 893.000 euro nel 2015. Vorrà dire qualcosa se triplichi quasi l'utile? L'assenteismo si era ridotto del 20%, l'incremento dei mezzi era aumentato del 15%, la differenziata era aumentata dell'11%. Si può sempre fare meglio, ma visto che stai parlando di due cose gestite prima di Filippi e di Fortini da Panzironi e Fiscon, indagati per mafia capitale, forse intanto quello era già un risultato prima di arrivare e come prima cosa far saltare i vertici di Atac e i vertici di Ama. C'è un tema anche di opportunità manageriale. E queste sono cifre, non sono opinioni politiche. Dicevo, il fatto che chi è stata consulente di Ama, con la gestione che abbiamo visto, con la sua ingresso a pieno titolo nell'inchiesta mafia capitale, forse non era il caso come opportunità politica di farla assessore all'ambiente. Anche su questo però è una valutazione politica. Io ritorno invece in collegamento con chi segue queste vicende per le sole 24 ore, Ivan Cimarusti, che ieri abbiamo interrotto perché era finito il programma. Buonasera Ivan. Buonasera a tutti. Allora, la valutazione, i dati di bilancio sono quelli che abbiamo ricordato. Ora mi sembra che tutto si stia spostando anche sul perché hanno rimosso il direttore generale Filippi, che aveva ben operato, e Fortini, che viene mandato via poco dopo l'elezione di... I numeri che prima hai dato sono molto significativi. Eh beh, cavolo. No, diciamo anche che al di là poi della gestione aziendale, che è stata sicuramente un fiore all'occhiello poi per Roma, quella parlo ovviamente quella di Fortini e del DG Filippi, che tra l'altro era stato distaccato da Acea, che è l'altra società pubblica romana. Loro avevano avviato, come vi annunciavo già ieri, un'operazione di trasparenza, avevano allontanato tutti quei soggetti che erano legati a quella vecchia dirigenza, che oltre a tutti alle varie problematiche giudiziarie che stanno affrontando, legate quindi al processo a mafia capitale, quindi Panzironi, Fiscon, erano dei soggetti che comunque mantenevano un legame con quella vecchia dirigenza. Ora, il problema della Muraro probabilmente è proprio questo. L'opportunità politica forse è venuta in un secondo momento, perché la Muraro indubbiamente è un'esperta. La gestione dei rifiuti è un nome che insomma riecheggia in tutta Italia e non si può negare questo particolare. Soltanto che la Muraro, e qui parlo ovviamente di un aspetto puramente politico, la Muraro è legata a quel mondo manageriale che il Movimento 5 Stelle ha sempre contestato. E questa è la stranezza non solo politica ma anche manageriale. Allora devo rispondere a alcune domande che mandano gli ascoltatori al 349-238-6666, sia come sms che come whatsapp, a chi mi dice: ma avete ripetuto? Certo che ho ripetuto, è la seconda puntata, chi se la fosse persa, visto che ieri l'abbiamo fatta alle 18.20, l'abbiamo ripetuta. No, l'obiezione che arriva dagli ascoltatori è questa: guardi che però avranno pure migliorato i bilanci, ma Roma, l'abbiamo visto tutti quest'estate, era invasa dalla monnezza e anche dai ratti in alcuni casi, adesso è pulita. Vorrei capire... Ecco, bisognerebbe fare una precisazione comunque anche su quanto è successo l'imbuto immondizia di luglio. Ecco, questa è anche poi un'ipotesi che è in piedi alla Procura della Repubblica. No, però scusa, spieghiamola bene questa, perché i tempi sono importanti, perché arriva la Raggi, arriva la Muraro e se ne va Fortini, ok? Ma il problema viene prima. Esatto. Il problema viene prima, perché quando arriva la Muraro e quindi quando arriva la giunta Raggi, già eravamo in crisi immondizia. La crisi è stata a luglio. Il problema è stato che era stato bloccato un appalto vinto, un bando europeo vinto da una società tedesca, la Enki, che ha un costo vantaggioso tra l'altro, 136 euro per tonnellata di rifiuto contro i 175 euro che chiede Cerroni per portarli in un impianto che tra l'altro è vicinissimo a Roma, era stato bloccato in regione, al Dipartimento Rifiuti della Regione Lazio, il Dipartimento Rifiuti ha negato a questa società i moduli per fare la richiesta del trasporto transfrontaliero dei rifiuti. Allora qua io mi sono anche un po' rotto, perché o uno giustifica bene perché blocchi un'operazione che a vantaggio di Roma, a vantaggio dell'AMA, fa risparmiare soldi E appunto tu ricordavi il costo a cui vengono dati i rifiuti per un accordo, tutto legale, un costo enorme, esorbitante, dati a Cerrioni, mi correggo da solo, perché è 1 miliardo di valori di euro l'anno per 15 anni, per 3 lustri, 175 euro a tonnellata di rifiuti indifferenziati, che fanno 175 mila euro al giorno, 60 milioni di euro l'anno solo per i rifiuti indifferenziati. L'AMA a guida Fortini Filippi riesce a far vincere una gara, un'impresa tedesca che offre 135, se non ricordo male, no? 136, vabbè, 40 euro in meno a tonnellata. Tutto si blocca in regione che non dà le autorizzazioni. Ecco, delle due l'una, o c'era un motivo serio o il sospetto che le pressioni lobbistiche arrivate in regione abbiano avuto la meglio. Okay? Anche perché dobbiamo specificare una cosa: bloccando questo appalto si è posto Mario Cerroni come l'unico interlocutore della pubblica amministrazione, e quindi quei 175 euro a tonnellata sono stati l'unica possibilità per risolvere la questione dell'imbuto di luglio. Bisogna anche dire che comunque con l'aggiunta Raggi gli impianti di TMB sarebbero gli stabilimenti di trattamento meccanico biologico, ora è un po' tecnico, però sono quelli che poi lavorano i rifiuti dove si ricavano il combustibile CDR, per esempio, sono stati, hanno lavorato molto bene negli ultimi tempi, hanno svuotato tutti i magazzini dove c'erano rimanenze, quindi comunque bisogna darne atto che c'è stata un'operazione. No, ma infatti... Esattamente. Il problema però non è soltanto politico, ma purtroppo arriviamo direttamente nel penale e nel giudiziario. Perché, come stavo specificando prima, la Muraro ha questi trascorsi con questi ambienti comunque opachi di AMA, ma purtroppo, questo per anche i cittadini di Roma, la Muraro pare avesse anche rapporti con lo stesso Cerroni. Ora si parla di rapporti indiretti a livello di consulenze, cioè la Procura lavora su alcune consulenze che la Muraro avrebbe compiuto per conto di società collegate indirettamente con quelle del gruppo Colari. Il gruppo Colari è l'impresa di proprietà di Mario Cerroni. È successo praticamente che a un certo punto, bloccato l'appalto della società tedesca... In questo caso, lo dico, non c'entra il comune, c'entra la regione, quindi stiamo distinguendo i piani. Il risultato è che la soluzione trovata dalla gestione Fortini Filippi, che portava un risparmio nello smaltimento di differenziata romana di 40 euro a tonnellata da 175 a 185, viene bloccata in regione, non si danno le autorizzazioni moduli. A quel punto Roma ulteriormente dilaga o viene immersa dai rifiuti e resta solo una soluzione, qual è? Discutere con Muraro o con Cerroni. E quindi lapsus freudiano. Prego. Esatto. E quindi c'è il famoso blitz della Muraro con tanto di telecamere e webcam del Movimento 5 Stelle in AMA, in cui la Muraro intima a Fortini di utilizzare il tritovagliatore di Cerroni a la somma di 175 euro per tonnellata di rifiuto. Somma, dobbiamo specificare, che nasce da un accordo tra Cerroni e Giovanni Fiscon. Indagato in mafia capitale, certo. Esattamente, nel 2013 Mario Cerroni fa la proposta ad AMA e dice: io vi smaltisco i rifiuti per 175 euro per tonnellata. Non c'è praticamente nessuna contrattazione, Fiscon accoglie la richiesta di Cerroni. Allora, io ringrazio intanto il collega, perché avevo promesso un secondo approfondimento, Ivan Cimarusti. Non stiamo parlando di politica, ma di gestione amministrativa, e chiaramente c'è una componente anche politica. Qualcuno mi scrive: lei è più anti-grillino di Renzi. Se è d'accordo su questo, allora ogni volta che nella classifica che domani toccheremo la Sicilia mi dirà che sono anti Crocetta, quando toccheremo la Lega e la gestione di alcune regioni governate mi dirà che sono anti-leghista, quando critichiamo Renzi e il governo sulla manovra mi dirà che sono anti-renziano, e via così. E ci posso anche stare. Non è che divento solo anti-grillino quando in una vicenda ben specifica dico una cosa, nel salutare Ivan. Ma qualcuno si è mai chiesto perché nessuno parla dell'Appendino? Perché l'Appennino si sta muovendo a Torino senza nessun tipo di problema. Poi adesso speriamo. Non è che ci sia una preclusione, una prevenzione nei confronti della Raggi, perché questo è il vittimismo che stanno innescando per motivi politici, come altri, come quando Forza Italia era vittima, Berlusconi era sempre vittima, come quando Renzi si definisce vittima. Cioè, il vittimismo è tipico di un atteggiamento politico per non andare sui temi. Nessuno tocca l'appendino, anzi mi sembra che vi siano solo elogi per lei, sindaco grillino di Torino. Obiettivamente, i movimenti della Raggi e la scelta della Muraro con quello che sta emergendo, un sospetto, e le scelte fatte sui direttori generali di Atac e Dama danno la possibilità di fare delle valutazioni, come le facciamo sempre per la classifica, ma per favore. Traffico, e poi andiamo anche su Milano. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta Focus Economia. Allora, 17:49 minuti, vedo un'agenzia adesso che riguarda le Olimpiadi, su cui non ho nessuna opinione, né darò nessuna opinione. Secondo fonti di agenzia, la giunta Raggi non cambia idea sulla possibilità che Roma organizzi le Olimpiadi tra 8 anni, quindi dice no, perfetto, rientra nelle sue assolutamente libere valutazioni. L'Appendino gode la sana gestione dell'amministrazione precedente, per questo non se ne parla. Sì, ma sto dicendo, io ho citato l'Appendino per dire che non è vero che da parte nostra vi sia un accanimento nei confronti del sindaco perché è grillino. Abbiamo fatto una testa, una capa tanta su Marino, sulle gestioni di Napoli, sulle gestioni di Palermo, ma vado a fare l'elenco? Non è vero. E di Torino non mi sembra, ci sono un insieme di cose, dai. Ma me lo dico a tutti coloro che simpatizzano anche per grillini, ma avere un orientamento politico non vuol dire mettersi il salame sugli occhi come fanno altri elettori pasdaran del PD, della Lega, di Forza Italia, perché ogni volta che toccavi Berlusconi eri un comunista, ogni volta che toccavi Renzi eri un disfattista, ogni volta che toccavi la Lega eri uno statalista meridionale, per favore, no? Allora, andiamo su Milano. Lei non parla mai di Sala e delle due case. Ne abbiamo parlato durante la campagna elettorale di Sala, del passo falso sulle due case. Eravamo in fase di campagna elettorale. Adesso parliamo di Milano per un altro motivo, perché sembra quasi appunto uno schiaffo, ma è notizia. Il patto per Milano, come scrive oggi Sole 24 Ore, dovrebbe essere quasi pronto. Vale 1,5 miliardi di euro, non lo definisce il comune di Milano e basta. Vi è una dialettica, diciamo così, tra Palazzo Marino e Palazzo Chigi. Sara Monaci del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. 1,5 miliardi, tanta sì. Roba. A sì. Cosa deve servire e su quali direttrici? Prego. Allora, il patto per Milano è un accordo che si basa proprio su un'intesa tra Milano e il governo e che serve a dare uno sprint ad alcune iniziative in settori ben individuati. Questa bozza è allo studio in questi giorni e martedì dovrebbe essere presentato nella sua versione definitiva o quasi definitiva proprio dal premier Matteo Renzi, che dovrebbe venire in mattinata a Milano. Ci sono delle direttrici: le infrastrutture, la valorizzazione delle periferie, la valorizzazione degli ex scali ferroviari, lo ricorderà, un accordo molto importante che non trovò conclusione con la giunta Pisapia, che era agli sgoccioli, adesso viene ripreso. Si parla di un investimento di 130 milioni fatti da Ferrovie dello Stato insieme ad un accordo di programma con il comune di Milano per la valorizzazione di 7 aree semiperiferiche. Poi ci sarà ovviamente la valorizzazione del polo della ricerca finalizzata anche al dopo Expo, in particolare i rapporti con l'autorità del farmaco europeo, in modo tale da permettergli di spostare la sede da Londra, che dopo il Brexit si è indebolita, e portarla a Milano, proprio nell'area del dopo Expo, dove dovrebbe sorgere questo polo tecnologico con una serie di aziende che hanno già manifestato il loro interesse. In più ci sono anche degli spazi, diciamo, di dibattito, vediamo se poi verrà inserito dentro il documento, per la gestione degli immigrati, quindi si parla anche di politiche sociali. Ricordo che Milano è la città che in questo momento è più esposta perché sta ospitando 3.300 rifugiati. Ovviamente non si parla soltanto di infrastrutture, ma sono quelle la base del programma di Sala, che ha sempre detto in campagna elettorale di non voler più trascurare le aree periferiche. Allora, due approfondimenti abbastanza rapidi. Uno, per carità, hai capito, metropolitana 2,5, gli interventi, l'ATM, 77 milioni di valore, la linea rossa, non dimentichiamo l'emergenza di Milano, che è l'esondazione, chi non sta a Milano magari lo conosce, certo. Del Seveso e dell'Ambro, che creano sempre dei gravi problemi nella zona nord. Bisogna fare una vasca di contenimento in varie aree a nord e nei comuni limitrofi. Sono 120 milioni di euro già stanziati. Due cose, la prima gestione migranti a quel punto, e l'altra la possibilità di intercettare chi se ne andrà da Londra, lo spiego, ma l'Agenzia Europea del Farmaco, ma non solo. Prego. Esatto. C'è la possibilità, diciamo, dopo Expo di dare un maggiore sprint ai rapporti diplomatici proprio con le grandi agenzie europee. In questo momento si parla soprattutto dell'Agenzia del Farmaco. L'EBA, l'autorità bancaria, è stata in qualche modo accantonata, se ne parlava a luglio, però adesso ci si sta focalizzando su questo settore, perché a Milano dovrebbe nascere questo polo tecnologico nell'area del post Expo, tutta intorno a quello che viene definito lo Human Technopole, per cui, lo ricordo, a breve ci sarà un decreto dove verranno stanziati dei soldi dal governo. Certamente questo patto nasce anche su una comune visione politica, non è certamente un segreto che Sala di sinistra abbia avuto anche un sostegno durante la campagna elettorale da parte di Renzi, questo evidentemente. È sotto gli occhi di tutti, però è anche sotto gli occhi di tutti che effettivamente Sala, piaccia o non piaccia, nell'arco di una settimana una giunta l'ha messa in piedi e la messa in piedi. No, ti prego Sara, non mi buttare sul fronte politico, perché poi mi arriva il raffronto con Roma e sto cercando di uscire in maniera molto difficile. No, ma lo sto dicendo proprio perché so che ci sono queste contestazioni, ma al di là che ci piacciono meno, il fatto è che se dopo un mese e mezzo si fa un patto con un valore di 1,5 miliardi, al di là del colore politico, e non è nemmeno così netto a Milano, perché poi ricordiamolo, insomma, non è che sia andata tutta così liscia nemmeno la campagna elettorale. Delle primarie, anche delle primarie dentro il PD. Grazie a Sara Monaci del Sole 24 Ore. Allora, mi scrive un ascoltatore, sei un co, non posso dire il resto, perché non parli del debito record. Allora, sulla prima parte può essere. Sulla seconda invece leggo un messaggio di un altro ascoltatore, e poi dalla linea GR24. Provate a mettervi nei panni della Raggi, pensate che sarà facile liberare Roma dalle fauci della mafia, di mafia capitale. Siamo d'accordo, è un compito difficilissimo dopo la gestione Marino e non solo, anche precedentemente Alemanno. Ecco perché bisogna stare attenti a rimuovere i dirigenti e a chi ti consiglia di rimuovere i dirigenti se i conti economici di quelle due aziende stavano migliorando, ed ecco perché bisogna stare molto attenti in quel pantano di interessi congiunti che è anche Roma quando scegli un assessore, ed ecco perché forse una che ha lavorato 12 anni lì non è in un'azienda gestita in quel modo, finita in mafia capitale, forse, per quanto onesta, forse non era la scelta migliore, perché è difficilissimo il compito che la Raggi, siamo assolutamente d'accordo. GR24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Ok, accolgo il messaggio al 349-238-6666 su WhatsApp, che forse dov'è che l'ho perso? Dovrei dichiararmi berlusconiano comunista con tendenze grillo renziane e uno spiccato spirito leghista, così facciamo contenti tutti e andiamo avanti. Allora, la borsa oggi, però adesso basta con i temi della prima ora. La borsa più 0,50%, poi passiamo a Mario Draghi e alla Banca Centrale Europea. Più 0,50% Milano, ha ridotto i guadagni proprio dopo le parole di Mario Draghi. Parigi ha chiuso in negativo, meno 0,30%, Francoforte meno 0,70%, e Londra, che nulla c'entra con la BCE, più 0,20%. Dow Jones meno 0,22%, euro su dollaro è arrivato a quota 1,13, adesso 1,1250. Tra i titoli segnaliamo il calo significativo di Buzzi Unice, meno 4,11, Campari meno 2,30, Ferrari meno 1,5, Recordati meno 1,20 come Fiat, FinecoBank meno 1% come Exor. E poi Ferragamo più 4,30, Monte dei Paschi più 3,60, Generali più 2,5, Mediolanum più 2,20, Unicredit più 2. Segnaliamo anche in positivo A2A più 1,90, Azimut più 1,60, come Intesa San Paolo, 1,5% guadagno di Telecom Italia, l'1,40 quello di Mediobanca. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Dicevamo borse che hanno rallentato, diciamo, dopo le dichiarazioni di Mario Draghi. Sostanzialmente c'era chi si attendeva una delle dichiarazioni più nette e certe sul prolungamento del QE oltre marzo 2017. Ci sono varie notizie, però oggi, visto che c'erano molte tensioni ieri, le abbiamo dette sui giornali sul Monte dei Paschi, il Monte dei Paschi fa più 3,70%. Sì, oggi un buon guadagno a Monte dei Paschi, peraltro è una giornata in cui è in calendario il Consiglio d'amministrazione che dovrà fare passi avanti sul piano industriale di rilancio dell'Istituto Senese, e peraltro oggi il titolo è anche sostenuto da una valutazione di Morgan Stanley che la vede molto molto a scontro, nonostante ovviamente i rischi legati a piano industriale e vendita dei crediti deteriorati. Su questo il tema dei crediti deteriorati è arrivata anche adesso una notizia peraltro a borse chiuse che riguarda invece Unicredit che ha ceduto un portafoglio di sofferenze per 570 milioni di euro. Oggi Unicredit in borsa è salita di oltre il 2% per motivi legati più alla vendita di Pioneer, ma dovrebbe essere questa una operazione per quanti non di dimensioni enormi, però importante, che dà un segnale anche nella direzione positiva per Unicredit. No, scusatemi, ma c'è un ascoltatore che scrive che sono un avvoltoio che vola sopra i cadaveri con il cravattino nero cantando Addio Lugano Bella. Beh, apprezzo, diciamo, il riferimento, ce l'abbiamo Addio Lugano Bella, secondo me ce l'abbiamo da qualche parte, apprezzo il riferimento all'anarchia e al cravattino nero anarchico, ma se vuole l'aggiungo alla lista, ma anche qui si sbaglia. Comunque almeno non c'erano insulti ma riferimenti di un certo spessore culturale. Andiamo avanti invece con la borsa, Ferragamo più 4,30%, dicevo, e ancora bene in generale le banche, Unicredit dopo l'ipotesi di Pioneer, di cessione di Pioneer e l'interessamento di Poste. Unicredit si è mossa bene, anche perché questa indiscrezione mostra come ormai stiamo per entrare nella fase calda delle offerte per Pioneer nella seconda parte di settembre, segnatamente il 19 settembre dovrebbero arrivare le offerte non vincolanti, e sembra esserci un interesse piuttosto ampio sia di fondi di investimento ma anche di soggetti industriali e internazionali. Oggi sono 24 ore ha riportato questa indiscrezione che diciamo in astre di partenza ci sarà anche Poste Italiane, il titolo di Poste è sceso, più che altro i commenti degli operatori non sono negativi per quanto riguarda la possibilità che Poste compri Pioneer, perché sicuramente l'espansione nel settore della gestione del risparmio era tra le linee industriali di Poste, quanto peraltro perché il profilo del titolo più legato a una distribuzione certa dei dividendi e anche abbastanza remunerativa nel rapporto prezzo-dividendi chiaramente potrebbe essere in parte rivisto, quindi diciamo c'è stata una parziale delusione, una parziale vendita di Poste che poi ha perso solo 1,03% sul finale. Allora, ancora due titoli. Mediaset oggi debole, si era ripresa sull'ipotesi che si arrivasse a un accordo, diciamo così, extragiudiziario, cioè non per via avvocati sulla vicenda premium con Vivendi, da un lato, e dall'altro invece anche A2A più 2%, perché anche qui c'è notizia. Sì, per quanto riguarda Mediaset, diciamo come dici tu, l'attesa e un po' l'orientamento del mercato era aspettarsi prima o poi un accordo con Vivendi. Le ultime invece indicazioni sembrano ancora orientate a un litigio piuttosto sostenuto tra le due parti, si parla anche di Mediaset che voglia accelerare i tempi delle procedure giudiziarie in Italia, che che si sia rivolta alla Consob francese per farla intervenire sulle comunicazioni che ha fatto Vivendi al mercato. Quindi c'è ancora una forte divergenza, almeno così sembra. Il titolo ha perso lo 0,5%. Per quanto riguarda invece A2A, oggi è una giornata positiva, c'è stato un incontro alla Borsa Italiana con l'amministratore delegato Camerano, che ha parlato delle sinergie con Linea Group, cioè l'altra utility lombarda che è stata recentemente acquisita, e ha detto anche che a breve ci sarà un incontro tra i soci forti di A2A, cioè il Comune di Brescia e il Comune di Milano, per rivedere e ridefinire i patti nell'azionariato. Chiaramente questo è un tema su cui l'attenzione del mercato è alta da diverse settimane. Migliori e peggiori: Biancamano più 28%, CHL più 22%, Visibilia più Editore più 15%, Dimel Group più 10,50%, fronte opposto Tesmec meno 8%, Key Group meno 5,30%, Fidia meno 4,60%, Class Editori meno 4,20%. Grazie ad Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso andiamo a parlare di Mario Draghi e della Banca Centrale Europea dei tassi. Se siete voi del PD nel panico ora, figuriamoci quando i 5 Stelle vinceranno le elezioni politiche. Farete un colpo di Stato? Guardi, ma abbiamo, da quando c'è questo programma abbiamo gestito governi Berlusconi, Prodi, Berlusconi, Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi. Ce la faremo anche quando vinceranno i 5 Stelle, ammesso che vincano, io non tifo per nessuno. Non si preoccupi, ne abbiamo viste in questi 16 anni, un po' di scorta ce la siamo fatta. Invece l'ascoltatore che diceva che sono un avvoltoio che vola sopra i cadaveri con il cravattino nero anarchico cantando addio Lugano Bella. Addio Lugano Bella, o dolce terra mia, scacciati senza... Bravo, bravo Pietro Lacorte che l'ha trovata. Traffico. Focus Economia. Addio Lugano bella, o dolce terra mia, scacciati senza colpa gli anarchici van via. Allora, snodato il cravattino nero, parliamo dell'ultimo tema, che in realtà è uno dei temi principali di questa giornata economico-finanziaria. E mi riferisco alla decisione della Banca Centrale Europea, tassi invariati da un lato e il quantitative easing, l'acquisto di asset dando liquidità al mercato, confermato fino al marzo 2017, non nessuna anticipazione di quello che capiterà dopo. Allora, in collegamento da Francoforte, Alessandro Merli, corrispondente sulle 24 ore, che si sta chiedendo che cavolo c'entrasse addio Lugano Bella. Non ti preoccupare Alessandro, sono cose che ti sfuggono, stiamo parlando del mio posizionamento politico. Alessandro Merli, buonasera. Buonasera. Sei ancora sconvolto per addio Lugano Bella? Adesso non è, no, non è una radio anarchica. No, ascoltare anche il resto della canzone, ma insomma... Adesso te la mettiamo, vorrei... dopo il collegamento ascolteremo anche tutto il resto, chiudiamo con addio Lugano Bella, dai, va bene così oggi. Allora, Mario Draghi, non abbiamo discusso dell'estensione del piano di acquisti che va sotto il nome di QE, quindi Quantitative Easing. Sulla base delle nostre periodiche analisi della situazione economica e monetaria, abbiamo deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Continuiamo ad attenderci che rimangano su questo livello o anche inferiore per un prolungato periodo di tempo e ben oltre l'orizzonte del nostro programma di acquisti. Per ciò che riguarda le misure straordinarie di politica monetaria, confermiamo che l'ammontare mensile di acquisti da 80 miliardi continuerà fino al marzo 2017 o oltre, se necessario. In ogni caso, finché non vedremo un sostanziale aggiustamento del ritmo dell'inflazione in linea con i nostri obiettivi, continueremo a monitorare da vicino gli sviluppi dell'economia e sui mercati finanziari. Preserveremo il livello molto consistente di supporto monetario di cui tengono conto le nostre previsioni e che è necessario per garantire il ritorno dell'inflazione ai livelli obiettivo, ossia sotto ma vicino al 2% nel medio termine. Se giustificato, agiremo utilizzando tutti gli strumenti disponibili nell'ambito del nostro mandato. Nel frattempo, il Consiglio ha dato mandato ai comitati competenti di valutare le opzioni che assicurino una morbida attuazione del nostro piano di acquisti. Allora, perché questa delusione di molti operatori che abbiamo visto poi riflettersi sulle borse, Alessandro, sul prolungamento del QE? Ma non lo so perché di questa delusione, visto che diciamo tutte, la gran parte delle aspettative alla vigilia della riunione era appunto che la BCE non facesse nulla, quindi diciamo che oggi gli operatori fanno e discano, hanno bisogno di un pretesto per comprare, poi per vendere. In realtà tutti i sondaggi fatti in questi giorni, il più significativo con la Bloomberg, diceva che la grandissima maggioranza degli osservatori di mercato non si aspettava una decisione dalla BCE oggi. L'unica cosa che ha fatto Draghi in pratica è stato dire che hanno mandato a questi comitati tecnici di studiare delle opzioni e quindi presumibilmente questa è l'indicazione che la BCE si muoverà, presumo, attorno a dicembre. La verità è che oggi sono state riviste queste proiezioni dell'economia dell'Eurozona che sono rimaste pressoché invariate, il patto Brexit forte non c'è stato e quindi la BCE ha archiviato probabilmente anche per cercare di costruire un consenso sulle nuove misure che al momento non c'è, però credo che sia inevitabile che si vada a dopo marzo, cioè il QE al momento dovrebbe fermarsi al marzo 2017, però c'è già questa valvola sì, diciamo adesso... di scappatoia che dice se le condizioni lo richiedono andremo più avanti, quindi credo che alla fine si andrà in quella direzione, però per farlo poi siccome vengono meno i bond da acquistare devono anche ritoccare diciamo i parametri degli acquisti, questa è la ragione di questo mandato ai tecnici per lavorarci. Allora, mentre cerchiamo, perché c'è un qualche problema di collegamento con Alessandro Melli che va e viene, di riprendere il collegamento, intanto di migliorare il collegamento, scusatemi, vorrei ascoltare altri due passaggi dell'intervento di Mario Draghi. Uno riguarda il credito. Alcuni, lo dico già, si arrabbieranno perché Draghi ha detto il credito ora va alle imprese, in Italia mica tanto. Secondo passaggio invece quello che dice noi non vogliamo cambiare la nostra azione e la nostra volontà, la nostra direzione, la nostra azione. E questo risponde, a mio avviso, a chi sta iniziando a avanzare delle critiche o delle perplessità pesanti sul rischio trappola di liquidità, cioè che Draghi continui a iniettare liquidità, a stampare euro, a tenere i tassi bassi, ma se non c'è la sponda politica, quindi di investimenti di carattere europeo, come è successo negli Stati Uniti, cioè la Fed stampava, ma il governo federale poi faceva un piano di investimenti e assorbiva questa massa, l'area euro rischia di trovarsi diciamo, quasi sommersa da una massa di liquidità che non va da nessuna parte con dei rischi enormi. Quindi Draghi sul credito e Draghi anche sugli obiettivi. But let me say one thing, which is probably the thing that matters most. While in the previous time we had observed fragmentation, vorrei dire una cosa che probabilmente è quella che ha più valore. Mentre in passato abbiamo osservato una frammentazione e quindi sviluppi sul fronte del credito molto deboli, ora possiamo tranquillamente affermare che la frammentazione è finita nell'area euro. Il credito sta aumentando costantemente da inizio 2014, mese dopo mese. Possiamo dire che gli spread che frammentavano il credito in modo drammatico tra le diverse parti della zona euro sono scomparsi, nel senso che ora riflettono solamente le naturali differenze, niente più di questo. Voglio anche sottolineare che ogni indagine sul settore bancario mostra come il credito stia senza dubbio raggiungendo le imprese non finanziarie e le famiglie. The non-financial sector of the economy, both for private companies and households. Why we haven't acted now? Perché non abbiamo agito ora? Al momento attuale non vi sono cambiamenti sostanziali nelle previsioni per giustificare un cambio nella nostra azione. Vediamo che la nostra politica monetaria è efficace e abbiamo notato la portata dell'impatto delle misure decise a marzo nelle previsioni macroeconomiche. Anche la discussione di oggi ha sottolineato di nuovo l'impegno unanime del Consiglio nel raggiungere l'obiettivo di inflazione. Quindi direi che non ci sono dubbi sulla nostra volontà di agire, la nostra capacità di farlo e la nostra abilità di azione. and the ability to do so. Oh, quanto mi piace l'inglese di Mario Draghi. Alessandro Merli, le critiche che iniziamo a sentire, più o meno velate, più o meno esplicite, insomma, che la Banca Centrale Europea rischi la trappola delle liquidità, l'acqua che dà al cavallo, il cavallo però non beve, ma non beve perché diciamo, la sete dovrebbero generare le politiche europee. Ma diciamo che la banca fa il suo mestiere, poi se gli altri non fanno il loro, questo è un problema diciamo di politiche europee, ma anche di politiche nazionali. Draghi da tempo sollecita i governi a intervenire, lo ha fatto anche oggi chiedendo riforme strutturali, ma chiedendo anche che vengano fatti più investimenti, che venga ampliato il piano Juncker. Oggi ha fatto anche per la prima volta un riferimento esplicito alla Germania, gli è stato chiesto del bilancio, del progetto di bilancio tedesco, insomma la legge finanziaria presentata in questi giorni. Lui ha detto bene, la Germania ha uno spazio fiscale per fare un'azione di stimolo fiscale, lo faccia, anzi addirittura si è spinto a dire che c'è bisogno che in Germania i salari crescano più rapidamente, perché poi si parla spesso di investimento pubblico. Ma e l'ha detto anche la Germania di usare gli spazi che ha in manovra. Ecco esatto, però non è che si possa rimproverare la Banca Centrale Europea se poi governi, gli altri, certo, diciamo protagonisti della scena europea sono assenti. La Banca Europea la Banca Centrale Europea cerca di fare il suo mestiere. Obiettivamente è un po' difficile sostenere con l'inflazione allo 0,2% e l'obiettivo al 2% che dovrebbe adottare una politica più restrittiva. Vabbè, certo. Semmai la critica giusta sarebbe dire, visto che siete così lontani dal vostro obiettivo, perché non vi siete mossi subito invece di fare questo ulteriore rinvio? No, ma io non volevo fare il portavoce di Weidmann, figurati. No. È solo l'obiezione che sentivamo circolare. Io sono d'accordissimo con te. Draghi fa quello che può fare, l'acqua la mette, dopodiché se gli altri non pensano a far bere il cavallo, cioè non è colpa di Mario Draghi, così l'ho rispiegata, non posso rispiegare la storia del cavallo perché ormai mi prendono in giro anche i tecnici per il numero di volte in cui l'ho spiegata, ma sono d'accordo con te, cioè qui il problema è anche di responsabilità, ma non voglio tornare sul tema, la Germania col surplus commerciale di ieri, l'ha detto Draghi, avete i margini, spendete un po' di più, fate qualche investimento di più, cioè assorbite la massa di liquidità che io vi sto dando comprando 80 miliardi a tutti i paesi euro, 80 miliardi di asset al giorno, al mese. Alessandro Merli resta con noi perché come dedica finale, eccezionalmente che non faremo mai un programma di dediche musicali, nel ringraziare il corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte e nell'augurare a voi un buon fine serata e darvi appuntamento domani alle 17, addio Lugano Bella. Addio Lugano. Radio 24. La passione si sente.